anni fa per lui già non ne ha problemi. Lui appena che si sente subito al volo ci prende. Deve essere che ce l'ha sempre in tasca il malachino, appena che ci sente subito è con noi, non ci sono problemi. Avanti fa. Ah, è puro che sia vero. Anche quello è vero, fra. Sì, lo so, non ha modulato per molto, ogni tanto così, e poi era un bel po' di tempo adesso che non si faceva più sentire, ma ieri, siccome stavamo parlando proprio di Proaghe, perché lui per un periodo è stato anche a Proaghe, allora è entrato e devo dire che ci ha fatto piacere, abbiamo fatto quattro chiacchiere e via. E siamo rimasti d'accordo che quando eravamo in frequenza, se lui fosse in ascolto sarebbe entrato, vabbè, comunque staremo a vedere. Se ci sente già entrerà, non ci sono problemi. Vai benino. Adesso mi sto ricordando, lui modulava molto con quella signora che c'era lì in Provate, davano di vento, se era occhi di gatto, occhi di lui, come a me. No, quella era Zia Maria, Medea, vabbè, che si faceva chiamare con un altro nome, non si faceva chiamare Maria, ma il suo nome originale di battesimo è Maria, Medea comunque di frequenza. Io mi ricordo occhi di gatto, occhi verdi, occhi di lupo. No, occhi di gatto è Mario a Sassari, il vecchio occhi di gatto è Mario di Sassari. E dunque, però che adesso il nominativo occhi di gatto c'era Fabrizio, che era l'amatore. Ma prima era Mario occhi di gatto, a Sassari, via alla Marmora, per l'esattezza, tutto lì. Fai memoria bene, benì. No, io mi ricordo quello, perché infatti quando lo conoscete c'era un bel braccio dolce. Allora, quella lì è Zia Maria. Zia Maria, io la chiamavo così perché sapevo in effetti qual era il vero suo nome. Lei mi sembra che si facesse chiamare, se ricordo bene, Giovanna, qualcosa del genere, frequenza. Comunque il suo nominativo è Medea. Il nominativo, guarda che portava i bambini, se ricordo bene, i ragazzi a scuola col pulmino, cosa era, una specie di taxi, no, cosa del genere. Praticamente la moglie, diciamo, di Gamma e il figlio Sirio, se ricordo bene, sì, Sirio, e dunque erano tutti e tre della stessa famiglia, capito? No, non mi viene, guarda, non voglio dire, ma non mi viene, non mi viene che dico altre cose, non mi viene, non è quello di quello. Vabbè, vuol dire che ho conosciuto un'altra persona e non è quella, vabbè, facciamo girare. Avanti Giuseppe. Ma Giuseppe, se n'è andato a passeggio. Giuseppe, ha bruciato il Galaxy 2. Giuseppe ha bruciato il Galaxy 2, boh, è tutto da fare. Uia. Avanti fra. Grazie. pelliccia di lanetta bianca come la pecora all'interno, dopo un bel calduccio, non ne hanno fatto più, e poi era anche comodo, quella specie di cappotto lì, col cappuccio, io ce la butto verde e blu, c'era verde militare e blu, ed era un saccaccio comodi, no? Magari va su più. E da te non vedi caso con questa belliccia dretta di via, la belliccia è la pecora, Giulio. Sì, grazie, io ce l'ho avuto anch'io, sì, io ce l'ho avuto anch'io, con chi è che ce l'aveva? Ce l'avevamo quasi tutti a casa, un K2 era un po' l'indumento più popolare dell'inverno, per carità. Ah, guarda giù di coso, di giubbotto, per carità, sembra una terra coperta, sembra. Infatti me ne ho preso un altro un po' più leggero, perché tutte le volte per la temperatura di Sassari non mi va, troppo caldo, troppo pesante, anche perché è lungo questo, non è il solito giubbotto, diciamo, all'altezza delle natiche più o meno, questo è lungo, mi arriva quasi alle ginocchia, sì che, ma è una delma compresa, ma carità, non ho usato più, infatti me ne sono preso un altro da poco per Natale, un altro leggero, però sempre ben imbottito ed è abbastanza caldo anche quello, non ci sono problemi. Avanti Giuseppe, si è chiamato là questo PL? Ma era PL, era il coso, era un cavo lì che doveva fare contatto per accendere il baracchino. Ah, ho capito. Per la cronaca, Benigni, Giuseppe sta usando lo stesso baracchino uguale a quello che sto usando io in questo momento, il Garage 2, da Mubile naturalmente, non da stazione fissa. Va bene, riprendi Benigni. Ah, io pure di qui, ora. No, io ce l'ho fermo. Sto usando il tornavo, quello che uso il camion, là. Perché questo qui lo sai come me, purtroppo sarà rotto qualche cosa, lo potrà controllare. Quindi io l'ho aperto, guardato, anche se lui ci abbiamo guardato qua, no, non ha un capito. Ok, bene, vabbè, diciamo che più o meno si equivalgono i Garage 2, il Tornado, il Pluto, tutti quelli si equivalgono, il anche l'altro, il secchio automobile della Sommerkamp, l'Uranus, tutti si equivalgono, hanno più o meno le stesse caratteristiche, no? Non è che si discostano di molto, capito? Tant'è vero anche, hanno quasi tutti gli stessi componenti, eccetera, eccetera. Avanti, Fra. L'altra mattina gli ho ricordato di quella cosa là. avanti e vediamo la prossima settimana. Cosa vuol dire, cara Robin? Io quello che mi ha detto ti ho riferito, poi lo vedrà lui, non lo so. No, ci saranno mi domandeggia, i denari d'affitto mi costa di più di da, cioè di chi ti deve comprare. Che capo? Oia, per carità. Vabbè, riprendi Giulio. Ok. Grazie, non si è sentato per un momento. Evidentemente non l'avrà potuto fare o non ha trovato componente Antonello, e non credo che, ma non penso che si sia dimenticato. È un po' come il bambino, peggio di me. Comunque. Magari se ne sarà dimenticato. Attendi i tempi e spera, mi dico, da cosa vuoi dica. Lui è loro che sto scherzando, dai. E già te lo fa. Avanti Franco. Quello è un nominativo che tu... aver fatto qualcosa in mente ce l'ho, però sinceramente non mi ricordo con in effetti chi fosse o chi era, boh, non lo so. Tornando al discorso poi di Occhi di Gatto, sì, è vero, oggi è Fabrizio, ma ancora prima ancora di, ma io parlo di 40 anni fa, c'era Mario Occhi di Gatto, vigile notturno, ex vigile notturno, figlio di nonna Belarda, anche la madre modulava, via la Marmola a Sassari, dunque una persona alta, longilinea, con gli occhi chiari, ed è per quello appunto che si era messo quel nome nativo, Occhi di Gatto, Mario, ok. Tutto bene, sì, quindi comunque quel nome nativo che hai fatto tu, Occhi Blu, un po' così non mi ricordo, però non ci arrivo, non ci sono ancora arrivato, vai vieni. E sono in Becco, canale 5. Capo, registrato il Becco. Sì, già lo conoscevo bene a Mario Occhi di Gatto, perché abitava vicino a casa, poi quando si era trasferito, la famiglia e tutto, c'era un pastore belga, lui, riprendi Sandro, buonasera. Ciao, dispositivo. Ciao Benito, buonasera, mi sembra c'è Giulio, e poi non voglio aggiornarmi prima che mi sbagli. Comunque, una buonasera circolare dalla Torres. Avanti Giulio. Ok, ciao Sandro, salutoni, ben ascoltato. Dimmi se quella cosa è andata bene o meno, così sì o no, niente di più. Capo Giulio, ma guarda, per dirti la verità, non ho avuto tempo, ho lasciato andare perché ho avuto altre cosette, dovrò procedere in settimana. Vabbè, non è un problema, no, era solo curiosità, capito? Mi sarebbe piaciuto che effettivamente andasse bene, se ho pazienza, se no cercherò di procurarne un altro pezzo, domani e domani eventualmente un pezzo più robusto, farò un saltino lì in officina da mio cognato, che lui costruisce appunto porte in alluminio anodizzato, essendo un artigiano fabbro e fa queste cose, e chiedo se ce l'ha un pezzo così trasparente, se ce l'ha poi casomai ti telefono e te lo faccio avere un pochino più spesso, capito? Sa, tutto lì. Va bene, facciamo girare. Avanti Franco. Capo. Buonasera Franco, me l'ho ascoltato. Niente, avanti Benito. Capo. Capito giù? Io li conoscevo bene, perché quella persona lì, io l'ho conosciuta un giorno un gemellaggio che avevamo fatto tra Radio Amatrice, capito? Sì, infatti Mario era un vecchissimo CB, io sto parlando degli anni 70 lì, no? Una persona che io ho conosciuto 40 anni fa e anche oltre, perché modulava lui, modulava anche la madre, modulava, tra l'altro, e poi mi fa la cronaca, è il figlio di quel gestore che aveva quel circolo in via La Marmola, angolo via San Sisto, tutto lì, però il padre non modulava, la madre sì, e anche lui, ma il padre no, la verità, perciò Mario l'abbiamo conosciuto in tanti e da tantissimi anni anche. Va bene, riprendi Giuseppe. Io già l'ho conosciuto a quella persona lì che abitava lì in via La Marmola, a Puglia. C'era una vita dentro quel locale, dunque ne ho conosciuto di cotte di crudi. Ok, sì. Dunque Graziano non è rientrato, un attimino di bianco, vediamo se è rientrato. Graziano, sì? Sto rientrato adesso. Io non me lo ricordo quello lì, Giulio. È che tu sei già vecchio, è per quello che te lo dico. Grazie. Vabbè, dai. Già te lo ricordi, cosa no? Fai memoria, mica faceva il vigile notturno, faceva, cosa no? Dai, già te lo ricordi. Credo che l'avesse fatto entrare in quel posto la buon'anima di Mario, mio. Grazie. Se ricordo bene è stato lui a fargli avere quel posto. Adesso io non vorrei sbagliare, ma mi sembra che è così, dai, lo sapevano tutti in frequenza. Dunque sono cose che si possono anche dire, visto considerato che si sono dette per tantissime volte, capito? Non è un problema. Riprendi, fai girare tu. Sandro è entrato, mi grazie. Ehi, ciao Sandro, ho Francisco Pappa. Ma che avrebbe fatto tipo Marubio questo qua? Mi sembra che sia quello. E c'è stato anche un periodo che ha portato i baffi, sì è vero. Se poi se l'ha fatto tipo manubrio di bicicletta, questo non lo so. Però c'è stato un periodo che ha portato anche i baffi, sì è vero. Sì, allora già me lo ricordo. Ma è molto visto. Vabbè dai, io vi devo salutare che hanno trovato la porta, dai. Ci sentiamo tutte le prossimine, dai. Sentito, però non ne sono sicuro, non ne sono sicuro. Avanti Sandro. Ok. Ok, va bene, va bene. Sì, stiamo andando bene. Intanto salutiamo lì a Graziano, ciao Graziano, buonasera. Poi Giuseppe lì che si è assentato, va bene, ok. Franco, perché stai uscendo così? Come sto uscendo, Sandro? Stavi andando bene, sembri dentro c'è una modulazione rimbombante, forse sei altro di macchine. No, è attivo, sto usando l'altro, non so bene freddo ancora, però è sempre allo stesso punto, non lo tocco mai questo, Sandro. Calma, no, allora, evidentemente... Ti ho ascoltato con l'altro, va bene, non fa niente, comunque ti ascolto ugualmente, va bene, che dire, niente, Giulio. Mi ha registrato se qualcuno deve entrare. Sì, in effetti poc'anzi stavo uscendo con un leggero eco, infatti io pensavo che stavi usando qualche microfono con l'eco e basta, ma adesso sembra che si è stabilizzato, forse era per quello che magari era freddo e allora tutto si è messo in ordine, però andava bene, perlomeno io ti sentivo bene, non era la tua modulazione, ma se ti sentivo abbastanza forte, ebbene o abbastanza comprensibile, non era un problema. Io ero convinto che stavi usando qualche microfono con una puntina di eco, capito, fra tutto lì, niente di particolare in ogni modo. Vediamo se c'è stato un break, un attimino di bianco, se lo riprendi tu dopo, vieni. Avanti il break. No, non c'è, vai, vieni. Da Udine non entrate ancora, no? No, quanto sembra. Attenzione K2, ci sei in ascolto? No, non c'è. Non c'è evidentemente, riprendi, vieni. No, ma Sandro, ti sta ascoltando della radio, non è riuscito. Non ho capito, Benino. La radio, sei troppo fuori, senti anche tu il rumore delle vette. Aspetta un attimino, provo a passare il mic again. Ok, così va bene. Così va meglio per me, tu stai usando. Sì, adesso ho migliorato. Guarda che io volevo dire una cosa a Giulio. Giulio, poco fa stavo usando. Sì, stavo nella doccia, il microfono con l'eco stavo usando, la puntina l'eco. Però stavo usando l'apparato vecchio, ma adesso sto usando il K. Mentre voi stavate parlando, io mi sono cambiato l'apparato perché questo qua stava salvando, capito? Ok. Ok, scusa Giulio, e allora se stai usando il K non sei tu. Perché? Cosa c'è? Cosa... non capisco... La modulazione com'è? Ecco, proprio sulla modulazione, Frank, è schiacciata la modulazione. Adesso non so se sei alto di Mike Gain oppure di Carrier, non lo so. Ma... lo penso, vai. Vediamo un po'. Mike Gain, vediamo un po'. Ok, vedi a vedere com'è adesso. No, non ha cambiato assolutamente niente. No, perché io ti ho sentito, diciamo, bello squillante, chiaro. E adesso ti sto ascoltando con una modulazione molto schiacciata, capito? Non è chiara. Adesso non so. Vediamo un po' Giulio. Sì, a me mi sembra che c'ha anche uno... un pochino di risonanza anche, se non l'ho sentito male, cioè nel momento che lui non faceva pausa del parlare, mi è sembrato che avesse anche un attimo di risonanza. aspetta. Ma va bene, c'è un giorno. Un coso giù, una... cavolo si chiama? Usano, che stanno facendo dei lavori giù con un... cavolo si chiama, cazzo? Adesso non mi ricordo, tipo un trappolo là. Ho capito. Hai l'aeroplano quando è avvicinato? Ho capito. E ti falsifica un pochino la modulazione. Comunque è un nasino la modulazione. Mi fai acchiacciata un pochino, come dice Sandro. Ti ho sentito altre volte con una modulazione molto, ma molto più aperta e più bella, più corposa, proprio chiarissima. Va bene. Già rimettere a... Ma può essere che sia veramente freddo ancora, perché non lo sappiamo. Quel tipo di apparecchio ha bisogno di una quindicina di minuti per ripristinarsi alla grande, perché va andando e aumentando. Avanti, grazie. Io l'ho sentito sotto quella giornata, tipo una cosa del genere. E infatti non è pulsa come di solito la tua voce. Ah no, ma è così, è un bel di messa. Cosa ti devo dire, grazie, per carità. Però questo qua non lo tocco mai, perché non è sostenuto allo stesso livello, sia di utilità, sia di potenza, tutto. Forse perché stava scaldando, lascialo scaldare un po'. Adesso era di meno, sentivo un pelino migliore. Adesso vediamo quando scalda, dai, a vedere. Ma fra poco già dovrebbe tirare. Aspetta un minuto, sta facendo un po' di luci tu. E allora ti avevo sentito bene il rumore dell'impattatrice. Sì, chiappa, adesso non mi ricordo che cavolo si chiama, sta facendo. E ora dici di robot, dico. Non lo dici, che la puoi filmare, ci fa tutto, ma impattato. Ah, tu intendi la legge, eh? Era proprio lì, non dico che sei grafico. E quando si può in nero, che il rumore era quello. Mamma mia, quanto sei brutto. Ti dico una curiosità, ma su quell'apparato stai collegando la massa a terra? Guarda, non ho fatto niente ancora in questo appartamento. C'è tutto pronto per fargli la massa a terra, per tutto. Io che nella radio c'ho la massa a terra. E allora, tenaia. Aia, signora Longari, comunque stai peggiorando, vediamo un po', Giulio. Sì, sta diventando sempre più cupa, più chiusa la modulazione, non so, ma forse, ripeto, vediamo un po' quando scalderà in maniera decente, ma comunque a quest'ora avrebbe dovuto già, diciamo, ristabilizzarsi nella maniera migliore, non lo so per quale motivo, no, veramente, non è la tua radio di oscurità. Usando K io ti sentivo in maniera meravigliosa, ma oggi non è proprio quella modulazione, è quella che io sono abituato a sentirti quando usi il K, veramente, non sto scherzando, controlla un po' tutto, vedi un po' lì i parametri, se sono quelli che devono essere, non lo so, solo tu lo puoi scoprire da cosa dipende. Va bene, avanti Graziano. Forse sta controllando un po' tutta la situazione, quindi sicuramente così è giusto che sia più tranquillo, che almeno controlla tutto e troverà appunto da cosa dipende questa modulazione non esemplare, ecco, come solitamente sono abituato a sentirlo. Va bene, dai, riprendi Sandro. Sì. sempre rauca, sempre. No, non capisco allora. Non capisco il motivo allora. Ma non è che sei troppo attaccato al microfono, lo sa. Magari non te ne rendi conto, perché poc'anzi stavi usando il baracchino e magari avevi bisogno di avvicinarti al microfono. Adesso non è che sei troppo attaccato per caso. Non adesso, a vedere. Non c'è stato nessun cambiamento. Comprimi, Sandro. Confermo io, è uguale a poco fa, lo sta uscendo bene fra. Guarda che cosa ivi, non lo so se il PL dell'antenna è ben collegato, controlla. Eppure è stato tutto a posto, Questo non lo so. Allora lo fermo a vedere, dai. Ho avuto qualche cosa in altri posti. Ora sembra che sia vicino troppo al microfono, o se no che è troppo alto il microfono, quindi va a rauca e quando la colonia magari ce l'hai scoperta ti fa lo stesso di questo, capito? Oh, dai, sono 50-60 centimetri dal microfono. Andando, c'è presente tu quando prendi un baracchino normale, gli copri la colonnina, no? Che va va a fare così. Via, ti ho capito. Vieni a vedere, si è abbasso un po' il tigino. Vieni a vedere adesso com'è. Anche un pochettino troppo, però ha migliorato. Almeno non sta andando quel colpo là. Confermi, Giuseppe. Sì, forse volevi dire Giulio. Sì, confermo, adesso ho migliorato un po', quando è aperto ho migliorato. Ma non è che per caso ci ho inserito il Vox, no, o Benino, ma no, o fra, volevo dire. Stai parlando magari tra microfono e anche Vox, no? No. Sto parlando solo con il Vox. Il Vox ce l'ho a 50. Però 50 e il corso on l'altro del microfono, ma ciò è giusto. Ma ascolta, ma non è che per caso hai cambiato il valore degli ohm del microfono, no? delle MC 60, non è che l'hai messo a 50 ohm anziché a 500 o viceversa come deve essere. Aspetta che guardo il mio, come se è a 500 o se è a 50, voi non lo vengo, mi devo pulire i pici, te dai, riprendi tu. Esatto, no, a 50 ce l'ho, quello ce l'ho a 50. Deve stare a 50 ancora. Deve stare a 50. Conferma 50. Ok, sì. Infatti stavo guardando perché non mi ricordavo quant'era, adesso ho guardato il mio microfono, che tra l'altro io non sto usando, sto usando un baracchino. Ecco appunto sì, è così, è sintonizzato 50, è vero. Vabbè, avanti che prendi, sa. Scusate se mi avete rilanciato perché mi è arrivata una bassa. Va bene, sì, no, va a 50, va a 50 ohm. Va bene, no, cioè, te l'ho detto perché magari uno non se ne accorge, modulazione non se ne accorge, capito? Non te l'ho detto per altro. E poi riguardo diciamo la massa terra in quegli apparati lì è molto ma molto importante. Infatti se tu hai fatto caso dietro c'è proprio l'apposito, la vite apposita diciamo per la massa terra. Sì, lo so Sandro, so che io ancora non ho fatto niente di quello qua, perché devo farlo per tutto l'appartamento anche, lo devo fare, e infatti ho comprato già tutto quanto, pronto per farlo, capito? E adesso finendo altri lavori, poi come finisco questo ne faccio l'altro. Ehi, capo, dai, va bene, dai, non c'è problema per quello, cioè, lo dico giusto così per... giusto per, non per malizia, ma lo dico giusto per informazione, perché magari uno lo sa, perché con lungo andare quegli apparati, diciamo, si rovinano, e quindi giusto per salvaguardarli. Tutto lì. Però adesso mi sembra che la modulazione abbia schiarito. Confermo! Ehi, capo, dai, ho battato un bel micchiere. Meno di metà, non lo so, infatti stava sempre andando bene, oggi sta andando male, strano. Vabbè, fra, purtroppo anche loro c'hanno i suoi momenti di alti e bassi, quindi è tutto lì. Va bene, Benito. Ciao Pasqua. Sì, Franco, va bene adesso, per me va bene. Dimmi sa. No, niente, dai, ti ho rilasciato. Giusto per far girare. Ok, io no, lo stesso io avevo, diciamo, il mic gain troppo alto, infatti questo c'è molta amplificazione e quando aumento assorbe tutto, diciamo, e essendo, diciamo, col suo mic originale, neanche un mic da base amplificato e quant'altro. Sì, ma è molto, molto forte la radio. Ehi, capa, insomma, già si difende, dai. Perché anche se cambi tonalità di voce, che sollevi un po' la voce, un po' di più la voce, si sente, capisci? Allora va a strappare leggermente quando sollevi più la voce. Sì, vabbè. Allora, essendo un mic, diciamo, un palmare, delle volte, diciamo, di solito io lo tengo a circa 20-30 centimetri dalla bocca, ma delle volte magari lo prendi, te lo avvicini troppo e quindi, diciamo, non hai una modulazione stabile, non è come un mic da base che schiacci, c'è una certa distanza. Vabbè, comunque, tutto lì. Giulio. Ok, comunque confermo anch'io, adesso Franco ha migliorato, l'ultimo passaggio che ha fatto era molto migliore dalla radio, si è schiarita, insomma, ecco, tutto lì. Sarà stato per quello forse, appunto, sarà stato troppo alto, allora andava, diciamo così, quasi a strappare, dai. Anche se si capiva ugualmente quello che dicevi, però non era la tua modulazione bella, chiara, e giustamente ne risentiva un po' la qualità dell'emissione radio, tutto lì. Va bene, dai, vediamo un po', grazie, ci sei? Confermo, infatti l'ultimo passaggio che ho sentito a Franco ha migliorato di molto. Sì, avanti Franco, che ti ascolto a vedere com'è. Hai registrato un break. Allora, rispondi a Giulio. Giulio, io non... Guarda, non tocco mai niente di questo, non tocco. Ce l'ho sempre allo stesso livello, proprio su questo apparato non tocco mai niente. Strano, perché le altre volte uscivo bene, magari oggi sarà il giorno. Ok, dai, riprendi Graziano, poi fai uscire. Fai entrare la... scusa, fai entrare il back. Ok, dai, che è migliorata adesso, che stai uscendo bene adesso, magari sta parte salutando, anche quello vuol dire. A parte il brecco. Ok, buonasera Samaria, il sottoscritto, buonasera Franco, Graziano, Giulio, non mi ricordo, Alessandro, avanti il piede Graziano. Ehi, ciao Di Maria, ben risentito, ti rilascio tutto quanto a Giulio, riprendi Giulio. Ok, ciao Di Maria, ben entrato, è un piacere per me ascoltarti, ti faccio un salutare dagli altri amici, c'è Franco di Sosso, l'avrei ascoltato, poi c'è Sandro e c'è anche Benito, avanti Sandro. Ok, ciao Giovanni, buonasera, ben ascoltato, vi chiedo un attimino di stand by, riprendi Giovanni. Ok, l'accordo sta, allora faccio via a Benito che mi sono dimenticato che c'era anche lui, mi sono ascoltato già 5 minuti, buonasera anche a Benito, e per iniziare il micro, va Benito. Ciao Giovanni, buonasera, benvenuto al programma. Riprendi, grazie. Forse doveva riprendere Franco. Franco, vai per Gio Maria. Ehi, chiappa, dai. Ciao Gio Maria, buonasera, ve l'ho ascoltato. Grazie, sempre più palco. Avanti Gio Maria. Ok, fatti un po' ascoltare, infatti aveva ragione Sandro, ha detto che non andava bene, ma adesso ho migliorato molto, adesso va benissimo la radio, almeno la mia ricezione è veramente buona la radio, per cui tranquillo qua adesso. Ok, tu sei, Giulio, a te vai. Ok, Giovanni, sì. Ripeto ancora, ben ascoltato la parte mia, ultimo che sei entrato, va bene così, così cambiamo due chiacchiere finché è possibile. Intanto faccio la chiamata per vedere se c'è ancora quell'amico che ho sentito ieri. K2, ci sei in ascolto, la usi? Non ti prende, vuol dire che non c'è. Te lo ricordi K2, Giovanni, ieri? Ha modulato tempo fa, sicuramente avrei avuto modo di ascoltarlo, ieri è entrato, abbiamo fatto quattro chiacchiere e ha promesso che si ripresentava in frequenza, non appena che ci sentiva, tutto lì. Va bene. Avanti Franco. Vedrai, se non sta dimenticato l'apparato dentro il cassetto, vedrai che un giorno o l'altro entrerà. Beh certo, suppongo di sì, Ofra, capita. Io comunque in questo momento ho un piccolo problema, perché mi si è spenta la luce del microfono che c'è, del microfono, e lo smitter, il modulometro non sale, perché? Perché la batteria è scarica, dunque sono costretto anche a cambiare il microfono. So che mi state ascoltando lo stesso, però sono basso sicuramente. Va bene così. Sandro si è accentato. Allora Benito. Sì, però sta andando bene, la radio non ha niente. No, io me ne sono accorto, qui è molto indietro da come la poc'anzi, scarica la batteria. Quando si spegne il LED qua e lo switcher, il modulometro non sale, ormai vuol dire che la batteria è già partita. Adesso cambio il microfono e noterai la differenza. Metto un altro microfono. Avanti Giovanni. Ok, la riprendo io. E infatti toccato il cavicello di K2, io l'ho sentito quello da usare, ma non c'era un altro anche K2, che parlava da Novulinco, che aveva bruciato la pelle, non è entrato più dove, da sempre. E evidentemente ancora non si l'ha riparato l'apparecchio, quello di Novulinco però. Quello di Usino sono già... Allora, 7-8 mesi che non la sento. Vuol dire che la sentita voleva entrare, ma capi mai se vuole fare la facciamo qua a Giulio. Certo Giovanni, no, perché gli avevo promesso che la sera se lui era all'ascolto, cioè sinceramente parlando mi è sembrato un po' timido, una persona in gamba, molto in gamba, ma mi è sembrato un po' timido nell'entrare a parlare con al baracchino. Allora io gli ho promesso che tutte le volte che entravo in frequenza la sera, se lui era all'ascolto, io gli avrei fatto una chiamata in modo da dargli il coraggio, diciamo così, tra virgolette, per entrare in frequenza. Non è che ci vuole molto coraggio, ma così, no? Un invito in poche parole, dai, mi farebbe piacere di ascoltarlo, niente di particolare. Ok, avanti Benito. Via, positivo. Domani però se va leggermente il cupo per me. Ma è del tipo il microfono che fa questo effetto, no, capito? È il tipo di microfono che è troppo occupa, qui bisogna regolarlo, capito? C'è un sacco di regolazioni, però ci vuole un altro che abbia l'apparecchio preciso per poter metterla a posto bene, quindi, capito? Ma qual è quello che ha tutti i toni alti, quella specie di microfono con quantità fisica? E c'è, come si chiama, il compressore anche c'ha questo. E infatti c'è un sacco di cose, però non mi sono mai messo la briga di poter proprio regolarlo perfettamente. Ma adesso da lontano più bene va. Sì, già va mica, no, a me Sandro mi sembra che una bella così, Sandro tu lo sai regolare, no poi. Ciao Giovanni, e di che cosa vedi? Sono pronti sempre, direttamente è stato toccato da quando abbiamo regolato la volta, tre cose, e adesso eventualmente rimane troppo occupato. Confermi anche tu? Allora, vi siete sovrappopolati, Benito con Gio Maria. Ok, Gio Maria, ripeti. Sì. Ah, no. Papa Giomari, dimmi che vi siete ti sei sovramodulato con Benito, dimmi. Io sono in frase 6.000, cioè, capito? L'abbiamo regolato la volta insieme, se non sbaglio, ti ricordi? Sì, ma io poc'anzi non ti ho detto niente, ma la modulazione è quasi incomprensibile, è molto, molto, molto schiacciata. E bisogna rimetterlo a posto bene, capito? Per cui, l'importante è che si capisca, dai, non ne voglia di adesso di macciarmi la testa con questa roba, capito? L'importante è che mi capisca, dai. Ehi capo, no, insomma, un po' di fatica ma già si capisce. Non lo so, prova a intervenire un attimino su Mike Green. Se l'apparecchio qua è un macello, gli alzai, là. Capa, dai, ok, va bene, dai. Magari un altro momento facciamo le regolazioni. Ok, perfetto. Gio Maria. Dimmi tutto. Ah, scusami, Gio Maria. Giulio. Ok, adesso spero che mi sentiate bene con questo microfono, perché ripeto, con l'altro c'è la batteria scarica, questo dovrebbe essere ancora buona, dunque sto usando il microfono manuale adesso, l'M300 da Palmo, perciò dovrebbe funzionare ugualmente bene, non c'è molta differenza. Chiaramente ci sarà sentato la differenza. Riprendi Franco. Un attimino anche alla portante. Giomari, una curiosità, stai usando mica il Tokai? Ah no, è tutta roba digitale, dai. No, non è a te Giomari, ogni tanto mi confondo. No, già ho capito cosa stai usando Giomari. A Giulio, stai usando il Tokai? No, negativo, sto usando il Galaxy 2 con l'M300, fa male. Ho capito, no, lo sai perché, non so se ti è mai capitato, diciamo che stamane ho attaccato un attimino al Tokai, l'ho lasciato acceso, così ho provato a mettere la mano sulla carcassa ed era calda, non so se è un fattore normale oppure no, ma non penso che sia molto normale. No, scaldare un pochino già calda come tutte le apparecchiature, però è un calore abbastanza normalissimo, perlomeno il mio quando io lo uso, adesso in questo momento ce l'ho dentro il cassetto, quando io lo uso sinceramente non è che scalda eccessivamente, va bene, la temperatura normale che deve raggiungere, perché deve essere così, una volta che raggiungono una certa temperatura, come regola non deve andare più avanti, si stabilizza a quel tanto e basta. Il problema è se per caso dovessi ancora aumentare, tu te ne devi rendere conto da quello, quale sa. Se vedi che aumenta ancora, allora ci può essere un problemino, ma niente di più, devo scaldare un pochino, ma non molto, un po' tiepido, dai, o tiepido un pochino di più di tiepido, dai, così risulta al mio perlomeno, quando lo faccio funzionare, ma per ore, non per 10 minuti, per ore, capito Sandro? Ehi capo, no, ti ho chiesto questo particolare perché so che ce l'hai anche tu, quindi ho detto ma prova a chiedere a Giulio. No, l'ho acceso in stand by senza modularci o quant'altro. E quindi ho detto, ma no, è strano, siccome era anni, ma molti anni fermo. Ma comunque, tutto da verificare. Va benissimo, ok. Se non sbaglio c'è Franco un po' in parcheggio. Franco. Ehi, capo. Ehi, va bene. No, non è fa niente, Sandro. Ehi, adesso com'è, Sandro? Migliorato ancora? Ma, diciamo, da poc'anzi hai migliorato. Potrebbe migliorare ancora, ecco. Penso di sì. Adesso è arrivato la sua potenza regolare, è arrivata. E diciamo che ho abbassato un pochettino i miei, vediamo un po', sollevandolo ancora un pochettino. Allora. Ecco, lui a vedere adesso ho sollevato, l'ho toccato appena. Quello appena già sta incominciando a comprimere. Dimmi quanto ce l'hai il carrier? Cosa? Sì, infatti, a quanti ce li hai? Sono con 25. Ok, togliamo un'altra curiosità. Ok, i picchi di modulazione, l'ago, fin dove arriva? Mi arriva modulando, mi arriva quasi a 100. Ok, più o meno ci siamo, va bene, più o meno diciamo il suo procedimento è quello. No, diminuisci leggermente il mic gain, ma leggermente. Ok, diminuisco leggermente il mic gain, adesso ho diminuito, ma tutto leggermente. Sì, già va bene. Già va bene, potrebbe andar meglio, poi non lo so, adesso dovrebbe essere abbastanza caldo, quindi non dovrebbe fare nessuna grinza. Ok, Giulio, rilascio a te e da parte mia stand by in ascolto. Ok, d'accordo Sandro, sì, no, allora, io poc'anzi prima di entrare in frequenza ero al computer e stavo leggendo tutte le caratteristiche, un po' delle 440 eccetera eccetera, e poi per riguardo della modulazione, poi per riguardo della radio, adesso non vorrei dire che il 440 sia uguale al 140, no, assolutamente, se è uguale non lo so, la verità, perché non li conosco, dunque no, però stavo dicendo che si dovrebbe regolare mettendo il commutatore, cioè il tastino sulla ALC nella posizione ALC, è che la modulazione non deve oltrepassare, perché nello smitter del 440 sotto c'è una lineetta rossa un po' larga, diciamo, la modulazione non dovrebbe sorpassare questa lineetta qua, tutto lì, con una modulazione con una potenza intorno ai 20-25 watt. Adesso non so se anche per quello deve essere così, io non te lo so dire, ma stavo leggendo appunto poc'anzi, vedendo un po', documentandomi per il 440, niente di più. Capito Franco? Sì, il 440, vabbè, il 440 non lo so se è uguale a questo. Questo non è il 140, questo è il 680, però più o meno dovrebbero essere uguali, in eccezione che questo c'ha solo i 50 MHz in più. Ho capito, sì, quella è una banda in più, sì, è vero. Sì, ma appunto, però ripeto, non vorrei adesso io associare il 440 al 680 o al 140, perché non lo so, la verità, se sono le stesse cose, se è la stessa cosa, se ha bisogno della stessa regolazione, queste cose non te le so dire, anche perché non ho molta esperienza, ce l'ho da poco io, dunque non posso permettermi nemmeno di dare un giudizio. Ti sto dicendo quello che io ho letto poco fa al computer. Tutto lì. Siccome mi avevo scaricato il sito dove appunto c'era il sito del libretto di istruzione, no, eccetera eccetera, e mi sono letto una ventina di pagine, mi sono letto così, fin quando non mi sono stancato di leggere, vedere appunto, capire e comprendere il suo funzionamento, però ripeto, sempre per il 440, non so se è uguale, non lo so, vabbè, facciamo girare. Avanti Graziano, si è rientrato? Graziano, non rientra, Giomari. Ok, ma io l'ho avuto e per cui il 680 e bisogna da uno all'altro, però potrebbe esserci qualche cosa, capito? Per cui la portante abbassata senza modulazione dovrebbe essere a 10 e la portante modulata attuare anche a 50. Provo a fare quel, però non aumentare la potenza, mettila al minimo. Fai così, la portante è muta, mettila che deve arrivare a 10 e dopo prova a modulare a vedere come esci fra. Ma non lo so, comunque hai cambiato microfono Giomari, stai uscendo molto meglio, stai uscendo. Sì, ma se io faccio quella pratica che stai dicendo tu, che a portante ruta vado a 10 e poi l'ho modulato a 50, io sto pensando che che va diversamente la modulazione, vedi? Guarda, ti faccio una provettina, ti faccio. Però, dai, Manu, mi prendi tu che io me lo faccio nell'altro canale, dai. Benito! Benito, lo riprende? Sì, Gio Maria, allora, rispondendo a quello che hai detto tu, 50, sì. Allora, il discorso, diciamo che, si equivale, allora, vedendo io qua, io adesso ce l'ho acceso qui, senza antenna, senza niente, no, ma è illuminato e vedo, allora c'è una freccetta rossa, un pochino più grossa di quella che è tutta intera, tutta lunga, sono due le frecce, ce n'è una tutta lunga, da un capo di un limite all'altro, poi ce n'è una che parte dal 1 fino al 4 praticamente, ed è una freccia un pochino più rossa, e quando appunto c'è la scritto in questo al computer, quello che ho letto, che quando si modula non deve superare la linea rossa, che in realtà è il limite proprio di 50 watt, come appunto stavi dicendo tu, Gio Maria. Io adesso ripeto, non voglio associare il 440 al 140, perché sicuramente è diverso, però elencando quello che leggo io sullo Smith, è tutto lì, hai capito, Gio Maria? Scusa, ok. Gio Maria. Dimmi, comunque è così giù, ma quando mette la LC, capito? La LC magari la puoi mettere, però credo che non si deve superi, infatti come hai detto tu, la striscia, se supera la striscia la condizione a strappare, per cui non va bene, però bisogna regolare anche la potenza, se no se la potenza è massima, è al centro, ti va oltre e se lo abbra troppo, capito? Invece vuole almeno al terzo tacchetto, allora sì, potrebbe anche andare, e a modulare un po' almeno da 30-40 centimetri, allora va bene, dovrebbe andare bene, dimmi fra. Ehi, Flappa, vai, vedi, adesso pesantemente ce l'ho 10, modulati 50, mi dirà, anzi, mi supera anche modulati 50, leggermente, mi supera. E com'è la radio? Ma io la sento perfetta, è la voce tua che sembra quella appena racco, però è la tua modulazione, per me è perfetta, ecco, perfetta, alla mia recensione, dopo Giulia non so come va. In questa colonnina io adesso come sei così, Franco, io ti sento benissimo adesso, è chiaro, per me va bene così, non ci sono dubbi, guarda, confermo quello che sta dicendo Gio Maria, io ti sento benissimo adesso, a differenza di prima che c'era una leggera distorsione o compressione, o come la vuoi chiamare, occupatezza, non lo so, insomma, so solo che adesso per me va bene così. Giulio, secondo me è il motivo perché poco fa mi stavate ascoltando all'inizio con un baracchino, diciamo, vai, ma che è un baracchino, con un baracchino, con un piccolo ecco, e poi magari sono arrivato qua, o mentre nella pausa che mentre stavo a entrare, ho messo subito 180 e probabilmente è quello, secondo me. Ma invece io dico che adesso è scaldato, fra, io dico che invece il motivo per cui adesso sta uscendo meglio è proprio perché adesso è scaldato, ha raggiunto la temperatura giusta ed è per quello che sta dando quello che deve dare appunto la palice, come deve uscire, insomma, mi sono convinto di questo, perché man mano che stai andando avanti stai sempre migliorando, Franco, di radio, capito? Ed è per quello che ho pensato che all'inizio era un po' freddo l'apparecchio e adesso man mano che sta andando avanti si scalda sempre di più, anche perché se io lo ripeto, non lo so, io ce l'ho avuto 25 anni fa, ma non ho avuto modo nemmeno di sfruttarlo perché non avevo antenna, eccetera, eccetera. Vabbè, a parte questo discorso, però so che quel tipo di apparecchio ha bisogno di scaldare per poter rendere bene, capito Franco? Tutto lì, niente di particolare, capito? Sì, infatti non l'abbiamo detto quando sono entrato, no, adesso sono con questo perché l'altro l'ho messo a saldare perché voglio che sia saldo quando entro, invece poi l'ho attaccato, però non era ancora pronto, non era, perché era poco che l'avevo attaccato, mentre adesso modulando si salda prima. Beh, sicuramente, certo, quando va in trasmissione scada prima, certo. Sì, sì, no, ma così va bene. Vediamo se è rientrato Benito. Benito! Sì, sono rientrato, era mia moglie, mi stava chiamando per il piano. Ah, ok, vabbè, dai. Attento a Mattarello, Benito. Sto scherzando sempre. Uia, uia, uia. Avanti, Gio Marini. Graziano è entrato e ha detto che ci chiudevo, per cui se ancora in ascolto lo saluto cordialmente, saluta in calle Graziano, buon proseguimento di serata e a risentirci. Vai fra. E in capo, vai. Ciao Graziano, allora, buon tutto, dai, ci sentiamo le prossime. Avanti giù. Ok, dai, saluto Graziano, allora ci sentiamo alle prossime. Graziano oggi ha fatto mezza modulata, cioè nel senso che ha fatto sabato fascista, ha modulato a metà, dai, del tempo che solitamente lui rimane in frequenza. Ma evidentemente ha delle cose da fare, ci mancherebbe altro. Vediamo un po', faccio la chiamata a K2, se c'è l'ascolto. K2, ci sei? Ciao, Circo Vario a tutti, K2 è partito sulla Luna. Ciao, Circo Vario a tutti. Anche quello è vero. C'è lo sciacco, okay. Anche quello K2. Si è girato un poco di K2. Il bombume, lo sciacco e tanti altri. Alcuni cimì, meglio così, chi più ne ha più ne metta. Avanti, fra. Dai, facciamo entrare a Bonito che è saluta cosa, dai, avanti Benito. E anche io, dai, vi saluto, fra, che mia moglie mi ha chiamato, ci conosco, ci sentiremo. Vi saluto, fra, saluto a Gian Maria, saluto a Sandro, non mi ricordo mai il tuo nome, va bene. Saluto un circolare a tutti. Ok, ciao Beni, te lo ricordo io, Giulio, probabilmente era il mio che ti è dimenticato il nome. Julius, te lo dico in latino, Julius. Ciao Beni, salutoni, ben ascoltato alle prossime, dai, ci sentiamo. Vai Giovanni. Ok, ciao Beni, sempre in forma, fa sempre piacere. Ciao Beni, buona cena. A domani se coincide. Allora vai Franco. Ehi, ciao Beni, vai, buon tutto, vai, ce la sentiamo le prossime, ce la sentiamo. Tanto noi la sentiamo subito di nuovo, già siamo vicini, lo stiamo lontano. Non è come K2 che va sulla Luna. Guarda, salutoni ricevuti e ricambiati. Scusa Giulio, ma non mi viene, non ho capito perché. Perché non mi ami, ecco perché. Ciao Beni, se non scherziamo nella vita, ma non ti preoccupare, non ho problema, figurati, se pensiamo a queste cose, può succedere, no? Non ci sono problemi. Ciao Beni, ciao, ci sentiamo alle prossime, speriamo molto presto. Ok, vai Gio Marì. Che c'hai ancora Beni, stai bene, buon proseguimento. Così è fatto, toccate, ma tu ci hai cambiato, infatti ho cambiato parecchio, adesso sono l'S9, capito? Però credermi, è tutta un'altra cosa. Oh, ma che quell'altro si è messo a posto bene il microfono, va bene quell'apparecchio, è un bambù, cobra 200, però bisogna mettere a controllare bene il microfono da un altro apparecchio preciso, allora sì. Allora c'è perfetto, sennò vai sempre da uno all'altro, capito? Comunque, adesso va bene, mi copiti bene, no Franco? Sì, adesso la sua modulazione verticale è uguale identica, e così deve essere. Io invece voglio fare un'altra cosa, perché sono convinto, perché era freddo, riesci a venire, aspetta, scusate un attimino. Intanto nel frattempo le prendo io, allora Gio Marino. Sì, no, stai uscendo benissimo, stai uscendo adesso, non ci sono problemi, io voglio. Ma anche poco altro. infatti io già ti sentivo bene lo stesso, va bene che noi siamo vicini, probabilmente sarà stato anche per quello. No, la modulazione è più bella in assoluto, o Giovanni, mi sembra che ci ha sentito avanti ieri, se ricordo bene, che stavi usando, con l'apparecchio, col microfono che ha leggermente, ma proprio leggero, l'ecco. Poi è una bomba quel microfono lì, non so quale microfono stavi usando, ma per dirti no, sicuramente tu te lo ricorderai. Avanti ieri mi sembra che ti ho sentito, Giovanni. Il cobra è, ma è già in faccia, c'ha appena detto quello lì in faccia, e quello va bene, va benissimo, ma anche questo non lo stesso, per cui mi piacciono tutte e due, le senove e il cobra sono due apparecchi, mi piacciono molto. Poi usano una radio, però me l'hanno detto tutti, dice che la radio è bella, pulita, chiara, è una vita. Adesso l'altro, ecco, per esempio, non va bene perché vuole allineato quella parecchia, anzi, fin troppo che sta uscendo così, per cui lo devo allineare. Poi, c'ho anche il Concorde 2, ma quello si conosce subito la radio, anche quello chiara la radio, ecco. Sì, no, ma escono tutti bene, sempre quello, escono tutti bene. Guarda che anche con Saturno, io l'altro giorno stavo ascoltando, però non stavo facendo qualcosa qua, non sono potuto entrare. Quando tu stavi parlando di allineare il Saturno, ecco, appunto, ti volevo dire, ce l'aveva anche Luigi, ce l'aveva, Luigi di Ottava, il Saturno, ecco, ce l'ha ancora. Ed era tutto quanto sconquassato, e lo ha allineato lui, toccando i vari potenziometri. Io gli avevo consigliato i vari potenziometri relativi a ogni funzionamento, no? Che ce li ho tutti segnati. E devo dire che è riuscito a metterlo proprio a punto, proprio in una maniera splendida. Tant'è vero, Luigi, quando lo sentiamo con quel baracchino, è una modulazione straordinaria, bellissima, veramente. Capito? Se tu guardi dentro c'è il VR14 e VR13, che sono quelli relativi alla potenza e alla radio, sono due potenziometri che c'è scritto VR14 e VR13, poi c'è il VR8 che è per lo smittere, VR6, insomma io ce li ho tutti segnati, che adesso a memoria non me ne ricordo nemmeno. E con un cacciavettino basta girare appena, insomma, te lo regoli e lo puoi fare anche da solo con un altro baracchino, con le cuffie e te l'ascolti. E poi naturalmente ci siamo anche noi a disposizione per darti tutti i reguagli necessari quando potrai fare quelle regolazioni, capito? Io lo so che tu non, che sei contrario a toccarlo tu, però ripeto, toccando quelle cose non stai facendo niente di danno, anche perché prima di spostarlo ti segni la posizione e eventualmente lo riporti a quella posizione, capito? Oh Giovanni, niente di particolare, tutto lì. Ma io non ne faccio, non lo tocco, no, ma c'è la persona che lo vuole fare, c'è Adriano che lo fa, c'ha gli strumenti adatti, capito? Per cui in quel strumento non sbaglia, lo devo portare a lui, capito? Però solo io sono un po' poltrone, magari avere questa cosa in mano così, cioè quando parcheggia la macchina, mi rompe, se no questo l'avrei fatto allineare da oggi, dall'anno scorso, ma siccome non mi truffa più del tanto, capito, gli altri non apparecchi, per cui tanto quello lo uso ogni morte di papa, capito, quando mi ricordo, per cui non mi preoccupo, capito, capaci magari che lo primo fuori riesco a portargli la mia linea lui, capito, c'è nessun metalarci, per cui solo lui lo può toccare questa pelle, perché io non è che lo dia uno all'altro, perché tanto sappiamo così, ma io non è che voglio mettere a quella persona che hai detto tu, però come quell'altro la conosco e so cosa fa, e per cui mi fido solo di lui, capito? Sì, beh certo, questo sì, è vero Giovanni, beh se uno non lo vuole fare è giusto che non lo faccia, ci mancherebbe altro, o perlomeno se non si di intrufolarsi in mezzo a queste cose qua, è meglio non farlo. No, io adesso mi saluto in mente, Gio Marini, quello che avevi prima tu l'apparecchio, quello che avevi venduto alla Bonani, ma no, e quello era eccezionale, avevo una radio straordinaria, bellissima, e poi la nuovo, me lo ricordo come se fosse oggi, Gio Marini, quello era veramente a posto, ma a posto, sia ben chiaro, anche quello che è adesso funziona bene lo stesso, ma non ha quelle prestazioni di quell'altro, mi seguo Gio Marini. Dopo mi sono pentito di averlo glielo dato, però era troppo innamorato qua, non ci aveva posto e mia moglie dice io sono barasola avanti, no, perché ce l'avevo in sala, no? Per cui in questo mobile si va un po' fuori e sfigurava un po' la camera, allora l'ho dovuto dare papone, ecco perché glielo ho dato, se no non glielo avrei dato, era nuovo, cosa l'avevo? 5 mesi, non di più, per cui la parecchia nuova, ma anche qua altra cosa. Invece questo qua sono stati cambiati i finali, non hanno messo i finali sui, non sono gli originali, per cui anche quello che li fa molto, avendo i finali originali sarebbe stato tutto diverso. Anche la potenza, perché questo dovrebbe avere 20 watt in banda, capito? E 11 dovrebbe dare in AM, però non te ne dà, capito? In AM te ne può dare 6, 7, non di più, e in banda te ne dà 11, capito? Così che la lineare bene, bene, bene, e quella persona ha lo strumento di poterlo fare, per cui io prima o poi riesco a darglielo, a portarglielo e lo metti a posto. Ok, adesso ti faccio sentire un altro apparecchio che il maestro dice che va bene. Se mi hai 2 minuti, facendo l'altro, va bene? Certo, Gio Marino, non ci sono problemi, figurati. No, ma comunque, ripeto, vanno bene tutti, gli apparecchi chiari vanno bene tutti. Però quello mi è piaciuto in maniera particolare. La modulazione mi è piaciuta in maniera particolare. A parte il fatto che era una bomba proprio, fortissima la radio. Era bellissima. Vediamo un po' se è quella che dicevi tu che ho ascoltato io. Adesso non lo so. Comunque, sentiamo, dai. Ma questo l'ho messo l'MPU5 però, invece metto che prima c'era il Prose 1000, c'era, capito? Forse mi ha sentito con il Prose 1000 che era una canonata. Com'è la radio adesso con l'MPU5? Questo è, dai, Gio Maria, è questo, dai, è questo. Guardate che tu hai usato un altro microfono, come stai dicendo, però anche questo è una bomba, Gio Maria, una bomba, va benissimo, non bene, benissimo, proprio bella, veramente. Ecco, bra 200, è nuovo, mi ce l'ho faccio un paio d'anni, però sembra uscito dalla fabbrica, un po' quell'altro. Io ci tengo, ben coperti, poi sto sempre spolverando, sempre in perfette condizioni, per cui vanno bene giù, vanno bene, devi tenerli bene e vanno bene gli apparecchi. Questo magari vivere bene perché è troppo avvicinato alla televisione, se no si sente anche la televisione, mentre invece l'altro è se no è più lontano e allora mi metto sempre con le serove, capito? Sì, ho capito Gio Mari, sì, infatti si sente la televisione, però non dà nessun fastidio, perlomeno a me non mi dà nessun fastidio, ti sento benissimo, tranquillo, con una radio splendida, veramente, no, va molto ma molto bene, il Cobra è un nome, il Cobra è una marca come si deve anche, tra l'altro vuol dire che vanno benissimo, no, io il Cobra ne ho uno da base, ne ho uno di quelli grandi, vecchissimo come tempo là, il trascorso, se no come apparato già è nuovo abbastanza. E poi gli avevo attaccato una quartiera, Gio Mari, siccome questo qui era solo 23 canali, no? E un giorno stavo sfogliando in mezzo a tutti i libri che ho, le riviste che ho, sfogliando, ho visto questa modifica, ho visto che si poteva appunto modificare. E ci ho aggiunto una quartiera con 5 o 6 quarti, adesso non mi ricordo bene. Mi ha fatto questa modifica e adesso fa da 1 sino a 37, a 40 non ci è arrivato, forse dovevo mettere qualche altro quarto, non lo so, però da 23 canali l'ho portato a 37 canali, l'ho portato, insomma, ma è un apparecchio molto, molto vecchio, questo è un apparecchio proprio vecchio nel senso nel tempo, non vecchio come apparecchio, l'apparecchio è in buone condizioni, però vecchio nel tempo, capito? Qua dovrebbe andare, qua a 40, sì, o Giulio, dovrebbe esserci qualche altro quarzo e dovrebbe andare a 40, sì, se non sbaglio. Sai che ci avevo pensato io la volta scorsa, probabilmente questo era proprio uno con la modifica dovrebbe, però bisogna sapere quali sono i quasi che ci devo mettere, Giomarì, e non so, io vabbè quasi ne ho un po', però bisogna vedere se quelli vanno bene, io diciamo che di ragazzi, ma ho letto la rivista, ho letto, ho visto lo schermino come era fatto, ho azzardato e mi è riuscita la modifica, però a 40 non ci arriva, la verità, si è fermato al canale 37, si è fermato, ma comunque non ha importanza, va bene ugualmente, adesso così e così lo lascio, no? È utile andare lì a pasticciare, poi se non so cosa devo fare, cosa devo stare lì a pasticciare, no, ho fatto come c'era scritto nella modifica che ho letto, mi sembra che era elettronica pratica, se ricordo bene, una rivista del genere, ma una rivista vecchia anche, oltretutto, molto vecchia di tanti anni, e ogni tanto do una sguardatina a questi giornali che ne ho tanti, no? E ho visto questa modifica, ho visto questo apparecchio, ho detto cazzo da questo ce l'ho, aspetta che voglio tentare la modifica, e mi è riuscita, cioè, Mari, cosa vuoi che ti dica? Ah, oh, ma va bene, giù, ma lascia così, fregatene. Sì, tanto non abbiamo l'apparecchio di 40 canali, e per cui... No, chi se lo fa fare? Oh, ma c'è anche la testa, va a fare così e là, e fregatene giù. Già, ce l'abbiamo i canali per poter chiacchierare, capito? E noi, da ragione, io troppo... Ci mettiamo queste cose in testa, allora non riusciamo più a riposarci bene, così è meglio. Fregati, ne ce l'abbiamo il canale, e siamo tranquilli, capito? Per cui auguri a parecchi, che troia, per carità. E c'è anche coso, il cocco venuto, quello dovrebbe funzionare bene, quello che ho fatto a graziare, le cose che usciva bene, però graziare dopo ha avuto altri problemi e mi ha ritornato e ce l'ho sempre qua. C'ho la paiente pure, c'ho la zodia, c'ho l'Interche 500S, c'ho i coli stremessi, e a proprio gli apparecchi, cazzo è giù. Già lo credo, Giovanni, che ci mancherebbe. E mi piace anche molto quello che alle volte ti sento quando sei in campagna, con quel microfono, se ricordo bene, l'M600 o qualcosa del genere. Adesso correggimi se sto sbagliando, ma mi sembra che è così. E devo dire che quella è una modulazione che mi piace lo stesso, c'è quella puntina di eco anche lì, poco a poco, che non dà fastidio, ma è bello, chiaro, è molto ma molto squillante, veramente. Anche quello mi piace, non so quale apparecchio è quello, però mi ricordo il microfono, mi sembra che sia l'M600, confermi che è così? Esatto, sì, l'M600, quello me l'avevano dato quando ho preso il Saturno Eco dalla Iene del Zucca, quel apparecchio che ho dato alla Murale Emanuele. Sì, e infatti io volevo un microfono per l'amplificato, mi ha detto, dice, aspetta, dice, lasci fare a me che gli do un microfono adatto a quell'apparecchio, verrà, dice, che dopo rimarrà contento. Infatti mi hanno rimandato questo microfono, l'M600, che quello ti puoi ascoltare anche mentre che parli, c'ha il monitor dietro, ti metti le cuffie e quando parli ti puoi ascoltare benissimo, è tutta un'altra cosa, è da parecchio quello, sono in campagna con il microfono, col 3006 della Connis, chissà che funziona, non ho toccato più, dai 2 giorni fermo quell'apparecchio lì. Però quelli lì non muoiono mai, e quando esco col microfono va benissimo l'apparecchio, è perfetta, la radio è perfettissima. Sì, Giovanni, infatti ve la ricordo benissimo quella modulazione, è veramente bella, molto ma molto bella. Sì, ha anche la possibilità del parlo ascolta, per sentirti come stiamo uscendo. sì, beh, un ultimo apparecchio, anche quello, sì, va benissimo, e soprattutto un ultimo microfono, molto ma molto bello. E vabbè, comunque, a te cos'è Giovanni, se uno mi tratta bene le cose, ti dura una vita. Io devo dire, in tutti questi anni di frequenza, tu lo sai, da tanti, da quanti anni ci sono, non ho mai, eppure mai guardato una cosa, l'unico danno che mi ha fatto è il lampo, ma è un po' purtroppo io quel giorno avevo tutto attaccato, la giornata sembrava tranquilla, il temporale, e poi ho bruciato quello che sai, no? Che avevo detto più volte, ma per dire, trattati male le apparecchiature, in tutti questi anni non c'è stata una cosa, una sola cosa che ho rovinato io, così me la usavo, no, assolutamente, sono stato fortunato, sono stato quello che vuoi, non lo so, mi sarà andata bene anche per tutti questi anni, il fatto sta che non mi è mai successo di guardare una cosa mentre io la utilizzavo, capito? Solo il lampo mi ha fregato, vabbè, pazienza. Cose. No, io non l'ho mai toccato col microfono, mai. Per cui cammina sempre. Invece questo lesadetta che uso su un Galaxy che mi ha dipattato una volta a causa della casa, e veramente non so da che cosa è partita e non usciva più. C'era la portata, ma radio non c'era. Allora l'avevo preso una dalla GPC, l'avevo messa, però ogni tanto mi mancava. Allora avevo un microfono della Incon, un microfono manuale, quello con la tastiera a palmare, no? Siccome era un po' la carcassa staccata, l'ho tolto la capsula e l'altro giorno ho messo quella capsula al Zavetta. Ma è altro che funziona bene, per cui dice che c'è bene, e per cui, ma quello l'ho toccato, ho preso di staccarsi i fili dall'interno, che tocca smontarlo per poter cambiare i fili della capsula, e l'ho fatta a pezzi, poi non sono riuscito a saldare seguendo i fili, per cui ho fatto la cosa bene, ben fatta, e già sta uscendo bene. L'unica volta ho aperto il microfono io. Solo quello lì ho aperto, ma gli altri no, magari che a connessione sì, vabbè, ma dentro non ho mai toccato il microfono io. Beh certo, Giovanni, intanto e poi se funzionano sempre bene non ce ne sarebbe nemmeno bisogno di toccarlo, sì, le connessioni sì, perché magari da un apparecchio all'altro ci sono differenze, lo vuoi utilizzare magari in un altro apparecchio e giustamente devi cambiare le connessioni, questo sì, però per il resto non è vero un motivo. Sì, vabbè, la capsula può succedere perché la capsula praticamente sicuramente ha una certa durata, tu pensami, siccome la capsula non è altro che un avvolgimento praticamente magnetizzato eccetera, no? Come è lo stesso discorso del campanello elettrico di casa, per dirlo, quindi a un certo momento quando uno suona il campanello è tutto scoppiato, ha fatto pum, proprio, cosa è successo? Si è bruciato la suoneria, si è bruciata, no? Perché evidentemente era arrivata alla fine, in poche parole, no? E io stesso sono andato, l'ho comprata e l'ho sostituita, per dire. E tutte le cose hanno una fine, indubbiamente. Evidentemente così è anche la capsula di un microfono, si può interrompere da un momento all'altro, perché no? Ma ne passano prima di degli anni, prima di rovinarsi una capsula, che già lo credo, sì. Vediamo un po' se è rientrato ancora, se è rientrato Franco. Franco, ci sei ancora? Ma che ti sto ascoltando, dai, che sto. Da, vabbè, sono qua. Ok, no, pensavo che ancora era assente, infatti per quello che non ti ho mai rilanciato, per quel motivo lì, ho detto, ma quello non ci sono problemi. E dai, quindi fai il passaggio tu anche, dai. Se no ci si asciuga la bocca, a lui, invece ci si offra, va bene, pure lì. Sì. Sì, l'ho sentito poco fa e stavate parlando delle colle, che sì, come Maria Giancone. Però io e sono uno bastolo qui sulle radio lì, sicuramente, io lo so che sono di vecchio stampo, ma sempre molto buoni e molto efficienti, già lo credo. Avanti, io... infatti c'è il gemello, sì, quello che c'è in campagna, che con 38 anni c'è un sacco di anni, ma sempre funzionato bene, e adesso già un mesetto, non sono sceso l'altro giorno, l'ho provato a chiedere, ma 5 minuti così, ho visto che funziona, per cui sto tornato a chiudere, coprirlo e ho lasciato qua, adesso fino a primavera non lo tocco, e chi lo tocca? Vabbè, però ogni tanto se le giornate belle che scendi lì, lo accendi ogni tanto, lo lascia acceso finché che rimani tu lì e non gli fa niente, dai. Questo vecchio io era anni che non lo accendevano, e poi l'abbiamo acceso ed è risultato buono, che ha funzionato benissimo. Sono apparati di vecchio stampo, tu pensa, quell'altro il paio di anni poco fa, quello vecchio, quello lì era 20 anni che non lo accendevano, era dentro un garage. L'ho acceso, è partito subito, guarda, 20 anni senza toccarlo. Il zodiaco c'ho, un zodiaco c'ho così, e più di 25 anni. Mi ero regalato per un compleanno, che l'antenna, tutto è usato. E dice, me lo piace, non piace, non ho mai piazzato. Dopo si è sposato, ma prima di sposare. E allora stava facendo una camera che c'era tutta la tracciatura. Guardando, ho fatto l'apparecchio. Allora mi ha ammazzato, l'ha fatto, ma è tornato, dice, c'è un apparecchio, è regalato, intanto a me non mi piace, non lo uso, per cui se vuoi te lo porto. E me l'ha portato ancora, ce l'ho, ma quello ce l'ho più di una trentina d'anni più. Ce l'ho. E non l'ha mai usato, adesso è l'anno scorso che me l'ha ritornato. Ma funziona, è una meraviglia. Sì, funzionano, sono apparati di più pronto. Questi di adesso magari se lo lasci un mese fermo uguale. Non funzionano più. O faccio una cosa, o faccio l'altra, per carità. Avanti giù. Ok, fa, sì, in effetti è così. E tutto sta a conservarlo come si deve, ecco, in un posto dove non prende umidità, ad esempio. Tutte queste cose sono importanti, se poi uno lo conserva così, che sono io buttato dalla parte, è chiaro che potreste avere delle sorprese poi. Ma se uno lo conserva bene, come si deve, in un posto dove non prende umidità, nel senso non umidità perché non è. Anche il vapore dell'ambiente, nel senso, il vapore acqua che c'è nell'ambiente, potrebbe ossidare qualche contatto, eccetera, ma se è conservato non gli fa niente, no? Va bene così, no, non ci sono problemi. Sì, ripeto, sono di vecchissimo stampo. Adesso prendiamo il 50-24 del Tokai, che ho io, quello è un baracchino di 40 anni fa e oltre, capita. E quanti anni era che ce l'avevo sempre dalla parte, lo accendevo. L'ho acceso un po' di volte in questo ultimo periodo, diciamo, in questi ultimi 2 anni. Ma se no prima era 20 anni messo da parte, che chi lo cercava? Che quasi mi aveva anche dimenticato di averlo. Eppure quando l'ho riattaccato ha funzionato e funziona ancora benissimo, non è che si è guastato niente, ma funziona alla grande lo stesso, perciò, e ho costruito bene, dai, oggi gli apparecchi di oggi non lo so se fanno la stessa durata di quelli di prima, non lo so, speriamo di sì, e chi lo sa, boh, dai Giammarì. La roba di prima è tutto un'altra cosa. Ma ti ricordi quella parete che ho dato a cosa a Manuele, la Monarca, il Saturno è l'altro, qual era? Il Somaca, l'effetti Somaca, ti ricordi giù? Sì, quello, l'effetti 7B, sì, quello che andava, che arrivava sino agli 80 metri, sì, me lo ricordo. Anche quello era nuovissimo, lo stesso, andava benissimo, Emanuele era contentissimo, non si è mai lamentato, era proprio soddisfatto dell'acquisto che aveva fatto, certo, sì, e poi alla fine Giovanni si era portato via un parente, perlomeno questo è quello che mi ha detto la figlia, Laura, ma non l'ha detto, dice, cuore. E cosa l'ha usato quello? Non l'ha usato per niente, si può dire, qualche un po' d'ascolto ha fatto, ma vabbè, purtroppo Manuele non se ne è goduto molto di quell'apparecchio nuovo, capito io Mari? Vabbè, è andata così la vita, purtroppo si riserva quell'altro alle persone. Va bene, se prendi fra. Vabbè. Quello è solo la fortuna della vita, per carità. Io... Sì, io sento, guarda, giù, c'ho un collet che lo, sono mesi che lo accendo, da quando sto? Da quando sto usando questo, non lo sto più accendendo quello lì, figurati. Io ne ho fatti 1, 2, 3, 4, io e ne accendo solo uno. Figurati, ma io devo dirti la verità. Io ho un Constat valvolare 25B, si chiama Constat 25B, ed è un apparecchio di oltre 40 anni. Beh, io l'ho acceso, senza esagerare, saranno 3 anni fa così, e te c'è a vedere se funziona ancora. L'ho acceso e funzionava, ed era sempre a posto, è stato. L'ho preso di nuovo, siccome è anche ingombrante, poi c'è con le valvole, quando scaldare, in estate sembra una stufa, sembra, vicino. Allora l'ho rimesso dentro lo scatolone e ce l'ho conservato per la prima. Adesso sono anni, nel senso che non l'ho più usato. Anzi, l'altro giorno l'ho visto perché ho aperto lo scatolone e ci ho messo un altro baracchino dentro che non sapevo dove tenerlo perché nel tavolino non c'era più posto. E allora l'ho aperto e poi l'ho sigillato di nuovo, no? Perché la scatola l'ho chiusa e poi ho preso il nastro adesivo, ho preso quel nastro di carta largo 5 cm e l'ho passato in tutte le fessure della scatola in modo che non possa entrare niente dentro, capito? Né poco, né niente. E vuol dire che quando ne avrò voglia di nuovo lo tirerò fuori. Mi ricordo benissimo, c'è la valvola alla EL84, come sembra, come finale, ed è un apparecchio che va molto bene, 23 canali, sia ben chiaro, sono 23 canali, dunque no, niente di particolare, capito fra? Ehi, capo, quello, ma però c'è una cosa, quello lì quando scada pompa, perché quelli valvolari sono micidiali. Beh, diciamo che soprattutto prendono, se per caso, vabbè io problemi non ne ho qua, ma se prende un splatter da qualcuno vicino, no, assolutamente, sente appena proprio un simbolo così proprio da niente, non è come il trasensorizzato che se ti trovi uno vicino non capisci niente quando muoio a un altro, se tu sei nei canali vicini non capisci niente, con quello invece no, quello riesce a filtrare tranquillamente, no, è un buon apparato. Poi avevano fatto il 35 anche, avevano fatto il Constat 35 sempre, prima il 25 poi il 35, il 35 è ancora più bello esteticamente, perché il 25 in realtà esteticamente è anche brutto, ha uno smitter grandissimo, quello sì, molto bello, uno smitter molto grande, puoi fare una lettura proprio bella, però come apparecchiatura sembra una cassetta, sembra così, niente di più fra, capito? Te lo ricordi tu Giovanni il 25 e Constat? 35? Come non lo conosco? Io lo conosco benissimo, ma io ho avuto anche il fratello, come si chiama, il GTX 5000, che avevo preso dalla GBC, allora c'era il maresciallo, c'era che vendeva la GBC, era precisa con, non si montava le valvole, precisa quella la Consta, tutte le valvole che c'erano la Consta, c'erano lì GTX 5000, anche quella la era buonissimo l'apparecchio, no, l'avevo dato a uno scambio, ho fatto a occhio di gatto, l'ex la guardia notturna, lui mi ha trovato la macchina fotografica, capo, e mi ha fatto i flash, e io l'avevo dato quell'apparecchio, quello era bellissimo, a 220 quello era, esattamente a 220, era bellissimo, fai giù e riprende, fai vedere il brezzo. Ok, sì, in effetti quello è direttamente a 220, sì, è vero Gianmarì, non c'è bisogno di alimentatore perché ce l'ha incorporato, attacchi la spina e stai andando. Avanti Brecchi con la buonasera. Buonasera a tutti, sono più via, vai Fra. Ehi, ciao Gianni, buonasera, ben ascoltato. Avanti Gio Marì. Allora, risalutiamo. Ben risentito, una buonasera, buon rientra a casa già. Grazie, grazie. Siamo piano, in tutti i lucchi. Ma non cammino. Però le devo approfittare, devo chiudere. Scusa giù, è ieri sera, perché ogni tanto qua non mancano, entra adesso, entra dopo, è un macello, dovuto per forza chiudere in fretta pure, perché è sempre la gente entra esce qua bella vicina, mio nipote è un macello. Per cui adesso ne approfitto giù, buonasera, buon sentito e grazie alla chiacchierata. Ed anche a Franco e a Gianni. Vai già. Ciao Gio Maria, stasera ho salutato però il capriolese per parlare, io sono dovuto andare a lavoro perché era già tardi, scusate se non mi avete sentito. Ti ho sentito io già, ma stavano parlando che non volevo sopramodulare, tutto lì. Va bene, quel resti per me allora, giù a te vai. Ok, ciao Gio Maria, e figurati cazzo, io parto sempre dall'idea che la famiglia è molto, ma molto, quello più importante, non solo del baracchino, ma di tutto, e di tante altre cose, figurati Gio Maria, ci mancherebbe altro, la famiglia è sempre la numero uno, Gio Maria, con il baracchino già c'è tempo. Grazie anche a te della chiacchierata, dai, ci sentiamo alle prossime, eventualmente domani se coincide, niente di più. Ciao, saluto di famiglia, ciao Gio Marì. Avanti Franco. Ehi, ciao Gio Marì, buon tutto, dai, ci aspettiamo alle prossimine. Già parliamo quando abbiamo il tempo al baracchino, non quando non ne abbiamo. Avanti Gianni. Allora, mi sembra ovvio. Io vedi, ne approfitto quando ritorno, quando vado a lavoro, ogni tanto anche da casa, già va bene così, prima c'è la famiglia innanzitutto. Infatti così. Tu di volte rientri da lavorare, tipo come sono io, che non so neanche la radio in macchina, e arrivi a casa, sei stanco e non hai voglia neanche di accendere niente, figurati se pensi al baracchino a volte. A volte il baracchino si accende quando sei a casa, quando sei rilassato, e buh, basta, non di più. Avanti Giulio. Certo, Fra, già lo credo, sì. Non c'è niente che possa essere più importante della famiglia, nemmeno i soldi, che poi tra l'altro servono proprio alla famiglia, ma nemmeno i soldi, ma per carità, ma vuoi scherzare? E vorrei vedere. Vabbè, tanto c'è naturalmente scriteriata che non ne frega niente della famiglia, ci sono anche quelle persone. Ma noi apparteniamo ad un'altra categoria, capito Fra, perciò siamo consapevoli di essere affettuosi e grandi con i nostri familiari, ci mancherebbe altro. Avanti Gianni. Ehi, ero stato stasera perché sono rientrato e non c'eri, ho detto ma non c'è Giulio, deve essere sta facendo qualcosa. Ma già, ti dirò che appena che ho pregato, cosa ho fatto? Ho pulito subito la stufa e ho dato fuoco al riscaldamento, no? Alla stufa a pelle. Tutti i giorni è una cosa che faccio io, anche per alleggerire un po' il lavoro di mia moglie, no, è giusto che io collabori in famiglia. E poi mi sono seduto al computer, mi sono seduto già, sono stato almeno un paio d'ore. Poi non è che sono andato là molto, cioè adesso diciamo ci sarà un'oretta già, ma sono entrato molto in ritardo, sì, hai ragione, è proprio così. Infatti non ho potuto sentire né a te né a nessuno, nemmeno a Capri2, visto e considerato che voi l'avete citato poco fa, ma io non ho potuto sentire appunto perché non c'ero per questo, hai capito già. Riprendi Fra. Ehi, stasera mi penso tu. Sì, presto qua, sì, ma oggi ti abbiamo fregato. Cazzarappa. Sono entrato l'altro giorno, come si chiama? Falconero di sorso, l'ho portato al tempo. No, Falconero non l'ho sentito, infatti sono molto senza sentirlo. K2 è entrato ieri, già, ti ho detto le cose, ma forse tu non l'avevi mai sentito. Boh, adesso vi faccio chiamata, vediamo se è in ascolto, perché lui vive in campagna, vive, capito? Abita lì nelle campagne di Usini, dice che fa molto, molto ascolto, ma pochissima trasmissione. Vediamo se c'è. Attento K2, ci sei? No, non lo sento, evidentemente no, anche perché non è che è messo bene come antenna, l'ha detto, lui dice che dovrebbe ripristinare tutta la stazione, un po' tutto, però io sinceramente lo sentivo bene, anche se basso di segnale, però arrivavo con una radio abbastanza chiara, pulita, bella, io lo sentivo molto bene, va bene, cosa non lo sentiva però, Capri 2 non lo sentiva, è strano, perché tra Usini e Muros penso che ci sia un buon punto di contatto tramite Baracchino, evidentemente lì da quella parte non arrivava, perlomeno così ha detto Gianni. Avanti Franco. Ehi capo, e da Usini lo ascolti bene tu? Io lo ascoltavo benissimo, non bene, benissimo, ma veramente bene, il radio era 5, perfetta, era il segnale che era basso, quello sì, però il segnale era perfetto, una bella radio pulita, chiara, bella, pacata, corposa, insomma, tutte le qualità che deve avere una radio aveva, non niente di particolare, capito, però ottimo, ottimo veramente. Va bene, dai, riprendi e fai girare tu per Gianni, vai. Ehi, capo, dai. No, perché se arriva Usini, certo, dovrebbe essere... Vabbè, da me non lo so, perché mi sembra un po'... Perché non arriva neanche Muros, non arriva bene. E a volte a Muros o a Capri 2 lo sento, ma a volte non lo sento. Dipende dalla giornata, capito? Avanti, capo. Capo, io Capri 2 ne conosco il muro, ma era di Usini. Era accompagnato che muoveva prima la piazza Sola e poi... No, questo non lo so se è la stessa persona, ma lo credo già, perché, aspetta, ti spiego, lui ha abitato, mi stavo dicendo ieri, che ha abitato per un lungo periodo a Sassari in via Enzo, prima di tutto, no? Dopodiché si era trasferito ed era andato a Proaghe, ma Proaghe, sai come è fatto? Lui è entrato per quel motivo lì, perché abbiamo fatto un discorso sui vecchi ricordi, no? Delle persone che c'erano prima lì a Proaghe, tipo la Bonale Madigi 91, Zia Maria, cioè la tassista, diciamo, e poi Medea, ecco, e poi lui è entrato, perché evidentemente anche lui aveva dei ricordi, perché lui ha vissuto a Proaghe, però adesso si è trasferito, adesso già da tempo, si è trasferito a Usini, ma non Usini paese, in campagna, nelle campagne di Usini, e appunto evidentemente lì, e mi stava dicendo tra l'altro che aveva problemi di lavoro, come tutti i giovani, no? Come tutti noi veramente, niente di più, no, non tanto io perché io sono in pensione, ma voglio dire, è la notizia del momento, ed è entrato un attimo al baracchino e mi ha fatto molto piacere, anche perché io l'avevo ascoltato qualche anno fa, ma ero un sacco di tempo senza riascoltarlo, capito Gianni? No, io non l'ho mai ascoltato, non mi ricordo di averlo mai ascoltato, poi può darsi che mi ricordi male, ma non mi ricordo di averlo mai ascoltato. K2, ti ripeto, sento quel ragazzo lì che prima volava la piazza Sola, aveva avuto problemi anche perché parlava male, c'era un suo amico che parlava male, aveva avuto problemi, eccetera, eccetera. Poi lui l'ha detto che non c'entrava nulla con quello perché entrava, era mezzo tossico, eccetera, eccetera, questo qua. Vabbè, comunque ci fa piacere se entra, perché più c'è di gente è meglio, specialmente se è in gamba, ci fa sempre piacere. Ecco. Registrato il greco, sì certo che è in gamba, già lo credo che è in gamba, è un'ottima persona veramente, no, io ho avuto modo di ascoltarlo altre volte, diverso tempo fa, e devo dire che è un'ottima persona, una persona squisita veramente. C'è stato un break, avanti per il break. E buonasera, saluto un eco qui a K2 rientrato, mi state cercando, riprendi Giulio. Ok, ciao Gianni, no, non è che ti stavamo cercando, ho solamente detto che non ti ho sentito stasera proprio perché io mi sono presentato in frequenza un pochino troppo di ritardo, niente di più, solo per quello Gianni. Avanti, riprendi tu ancora, fai girare, c'è anche Franco di Sorso, oltre che Gianni, in doppio room. Sì, perfetto, no, ero, sono uscito a fare delle compere, niente, ed eccomi qua di nuovo, non so se Franco Iassoso mi stia ascoltando, dobbiamo rilanciare, attenzione, Sorso, Sorso, capi due chiama, cambio. Ehi, hey, Cappa, ciao Gianni, ben ascoltato, salutoni, la ti ascolto, segnale 0, radio 2-3, vai, e ti ascolto, ti capisco benissimo stasera, ti capisco, poi mi dirai, al prossimo passaggio mi dirai se tu ascolti a me, avanti Gianni, dottor Rum. Cappa, ciao Capri 2, ben risentito, buonasera. Ciao Gianni, buonasera anche a te, immagino stai rientrando, segui. Ti ascolto Franco, ti ascolto con un Santiago di 3 e la radio è comprensibile, non è 5 ma è comprensibilissima. Eccomi qua di nuovo, ok, Giulio lo sento bene, quindi il QSO può proseguire alla grande. Avanti Giulio, a te il microfono. Ok Gianni, sì appunto, infatti io ieri sono rimasto un pochino meravigliato, no Gianni, infatti l'ho ricordato anche poc'anzi, ti ricordi quando è entrato poi con l'amico di Usini, K2, che torna e mi ha detto che non riuscivi ad ascoltarlo lì a Mulos, infatti sono rimasto un pochino meravigliato, perché Mulos con Usini, io penso che sia una posizione abbastanza, diciamo, propizia l'uno all'altro, non lo so, però sì che mi sto sbagliando, perché ripeto, come segnale non ne aveva molto K2, però di radio io lo sentivo molto ma molto bene, radio 5, bella, pulita, chiara, tranquilla e anche forte, mentre invece il segnale era bassissimo, no? Quello sì, e poi ci ho pensato, ma strano, evidentemente dalla mia parte c'è lo spiraglio dove poter appunto passare le onde e riesco ad ascoltarlo, mentre invece è difficile per Muro o per Gianni. Tu cosa mi rispondi Gianni? E ti rispondo giù, che io ho la montagna dietro, quindi qualche volta Torino Attila arrivava, perché diciamo modulava da usini, non le so, le condizioni di K2 e di attività radio come sono, di antenne, che apparecchiatura usa, prima quando modulava da QTH di Papa di Mosca, nonché Floaghe, l'ho ascoltato e ci conosciamo anche di persone, però stiamo parlando già di una trentina di anni fa, carissimo Giulio, hai capito? Poi io l'ho più tornato a incontrare e il cutiere campagnolo magari è stato debole per la mia posizione, riprendi ancora Giulio e poi rilasceremo a Gianino Più. Ok Gianni, sì, beh, evidentemente proprio per quello, allora il motivo per cui non riuscivo a sentirlo è proprio questo fatto che mi hai raccontato, la montagna, eccetera, eccetera, sì, sarà per quello, no, perché ripeto, anche perché come segnale anche qua devo dire che era molto basso, però la radio era ottima, veramente ottima, tanto è vero, mi ha risposto e l'ho risposto a tutte le chiamate, a tutti i passaggi che abbiamo fatto, non ci sono problemi. Vediamo un po', avanti Franco. Ehi Chiappa, perché Torino Attila sta ancora modulando? Ma io devo dirti una cosa, Torino Attila sono un bel po' di tempo che non l'ho più sentito, infatti ieri stavamo parlando anche di quello, anzi a dire la verità ho chiesto io a K2, essendo lì a Usini lui, se avesse sentito più Attila, invece no, ma ha detto no, io non l'ho più sentito, non lo so che fine può aver fatto, ma non l'ho più sentito. Va bene così, purtroppo se non si fa sentire non sappiamo niente, sarà impegnato con lavoro, non lo so, va bene. Riprendi e fai girare per Gianni che sicuramente sta per arrivare a casa, vai. Ehi capo, tu pensa o giù che quando sono entrato in frequenza mi avevano messo il nominativo Attila, che avevo messo. Poi è entrato lui perché non lo sapevo che c'era questo Torino Attila e mi ha detto no, il mio nominativo dice non lo usare perché quello è il mio. Allora sono rimasto con Franco di Torino. Ah, figurati. Ok, dai. Avanti, Gianni da Torino. Cappa. Sì, vabbè, ma io sono già. Anche io stavo usando un autotrasportatore e aveva chiesto a Maria Mambo se io ce l'ho ancora. Io gli ho detto no, non lo usare perché Gianni da Torino modula ancora. E dal giorno dice che non l'ha più sentito usare il nominativo. Ehi schiaccia, e infatti dalla volta non l'ho usato più io, e lo usavo in banda laterale, quando facevamo di ex queste cose qua, lo usavo solo. E poi non l'ho usato più, ho detto beh adesso rimango con Franco così dal torso e basta. E così sono rimasto. E il nominativo non me ne ho mai messo. E avanti gli anni di muro. Ok, perfetto Franco Queselle. Sì, però il discorso più di K2 senz'altro è un po' ricordo a voi. E poi adesso prendiamo il discorso Antonio Attila, io mi sono visto diciamo in dicembre, ha detto che vendeva tutto, che non è più intenzione di entrare in frequenza, comunque sta bene tutto lì, capito? E niente, quindi giusto per chiarire il discorso. Poi diciamo del discorso dei 15 P ieri, anche Giulio mi ha fatto pagare nella memoria e mi sono venuti anche in testa CP che non è lì che mi ero dimenticato, che non mi veniva, cioè il tipo Andrea Doria, che poi mi hai detto che lo conoscevi qui e là, abbiamo parlato di Carlos Primero e tutte queste belle cose, che una volta abbiamo detto che era venuto nel 74, aveva fatto una sfilata di CP a Osi, non so se tu avevi partecipato, aveva vinto anche una coppa lui. Non ricordo questo particolare già, no, mi ricordo una volta, mi sembra che eravamo purtroppo là che eravamo, e a questo punto c'era Mandrone, c'era con la moglie, che adesso non mi ricordo nemmeno il nominativo della moglie, ma già mi viene in mente, e c'era anche Rosa Verde, eccetera, eccetera, in questa sala da ballo, no? A un certo momento gli ha fatto, Rosa Verde, vieni un momentino. E c'era Mandrone, il nome di Baracchino, era seduto nella sedia, era seduto, no? E lo chiama, Rosa Verde, vieni che ti presento mio marito, dice, eccomi, questa è Rosa Verde e lui è Mandrone. E mentre gli porgeva la mano per stringergliela, Rosa Verde, sai, con le sue battute che già non le mancavano mai, e si vede che Mandrone non si alza nemmeno dalla sedia per stringergli la mano. Te le immagini già. Oh, si chiamava Mandriano si chiamava giù. Mandriano. Quello è un altro, Gianni, stai sbagliando, quello è un altro. Questo è proprio Mandrone e quello è un altro, non Mandriano. Mandriano era un'altra persona, capito? Adesso la moglie non mi ricordo come si chiamasse a Baracchino, ma già mi viene in mente, e prima o poi già te lo dico. Capito? Quello era un altro quello, ed era in una sala a ballo e mi sembra che eravamo proprio lì a Proaghe, se ricordo bene. Sì, Proaghe mi sembra che fosse, sì, quella sala lì. Vabbè. Ma non sapete, non lo sa ormai, dai, per queste cose. Avanti Franco. Madonna di cuori. No Gianni, no, non era donna di cuori, era un'altra donna. Non mi ricordo come, ma no, già mi viene in mente, dai, già ve lo dico appena che mi viene in mente. Avanti Franco. Capo, io riprendo, però vi devo lasciare, così, perché oggi sto facendo cose in terrazza, sono ancora tutto fuoco, andrò a farmi una doccia prima di cena. E ce la riascoltiamo, dai. Ciao Giulio, ciao Capridue e Gianni Lutterun. Ce la riascoltiamo un tale prossimine, magari a domani, dai. Se oggi non la finisco qua, la finisco, la terrazza della ricetta di te. Avanti Giulio. Ok fa, ciao, grazie per la compagnia, ci sentiamo nei prossimi, dai, stretta di mano e sempre in gamba lì a sorso, tutta la compagnia e tutta la compagnia cantante. Avanti Gianni, doppio giù per salutare a Franco che sta chiudendo. Ciao Fra, ci sentiamo, dai, buona continuazione, allora, che stai facendo trapassetti, dai, ci sentiamo alla prossima. Ok, avanti Muro e Gianni. Ok, ciao Franco, salutoni, buon tutto e a presto di sentirci. Allora l'altra sala giù era la sala sport, che era proprio all'ingresso di Proaghe, sulla destra, che adesso lì c'è il ristorante marinaio. La sala sport, confermi? Sì, mi sembra proprio quella, sì Gianni, sì, mi sembra quella. E adesso mi, 50% di mandrone, se ricordo bene. Tu te lo ricordi, Anonima? Certo che mi ricordo, ma c'era anche cosa, Conte Dracula che modulava da fuori, che era il nipote di Ponzio Pilato dell'Orefice Lenta, dell'Oreficeria, e lui praticamente la moglie di Ponzio Pilato si chiama Valenta, si chiamano di un'elleria, hai capito? E Conte Dracula era il nipote Ennio, hai capito? Ci va col Sommercamp da 10 watt, come quello che c'è io di fronte qui nuovo nuovo. E così, e poi mi sono ricordato anche altri nominativi di Sassa, ieri sera, Martin Pescatore, te lo ricordi giù? Certo, cosa me lo ricordo, altro che sempre quello, Slimer e Johnny Libby, Slimer e Cirinella, e cioè, guarda, un giorno prendo un foglio di carta e voglio scrivere tutti i nomi che mi ricordo, così almeno poi un giorno ne facciamo una questione, facciamo, o già, voglio un promesso, prendo un pezzo di carta, un foglio o qualcosa del genere e scrivo tutti i nomi che mi vengono in mente, così poi facciamo memoria e poi un po' ne aggiungi tu, un po' ne aggiungi a Gianni, un po' tutti, e vediamo un po' se riusciamo a completare un pochino questo discorso qua. Avanti, doppio su. Io me li ricordo tutti quelli che avete nominato, tutti quanti. È come se fosse oggi, dai, nei tempi. E comunque io, Anonima, Giulio, mi ricordo che era quella che aveva tutto il giorno, si chiamava Anonima quella. Sì, giusto, hai ragione, infatti non era quella. No, non era Anonima allora, sì, è vero. Infatti anche ieri quello l'ho ricordata io, sì. Anonima, la moglie di Cardinale, sì, è vero Gianni. Infatti quella l'ho ricordata anche ieri sera. No, no, non era Anonima la moglie di Mandrone o Gianni e Capri 2, no. Ma già mi viene in mente, vedrai che se faccio memoria piano piano già me la ricordo. Che adesso non di preciso, infatti non ero nemmeno convinto anch'io. Sì, Gianni, è vero, Anonima era moglie di Cardinale, quello che vendeva gli uccellini, eccetera, eccetera, è vero, riprendi. Poi c'era Luna, c'era Battimora. Certo, Battimora, Batman, ce n'erano pochi di nomi, Giulia. Poi per quanto riguarda Andrea Doria, come dicevi tu poc'anzi, io l'ho conosciuto molto bene, l'ho conosciuto, Giulia, che poi tra l'altro mi sembra che si chiamasse Andrea proprio di nome di battesimo, se mi ricordo che è così. Confermi tu Gianni, io più Luca, era così. Non me lo ricordo il nome, sinceramente, però mi ricordo i nominativi come se fosse lui. Il nome non me lo ricordo io, sinceramente, però i nominativi me li ricordo tutti. Gianni Capridura, avanti. E abbiamo nominato anche a Cicinnato ieri sera già, hai capito? E Andrea Doria, io l'avevo conosciuto a Osi, alla Sfilata. E poi modulavo anche io con Ottieri, che questa signora era già una certa età, e mi aveva invitato, una macchina non ne avevo, ci ho fatto una conosciuta, si chiamava Bersagliera, e poi c'era quella di Chiaramonti, Giulio, non so se ci hai mai modulato, con Medusa. Ehi, Abuglia! Caspita, ci modulavo quasi tutti i giorni, ci modulavo, tutti i giorni quasi ci modulavo, no, per me erano persone simpatiche che ti invogliavano a parlarci con loro, capito? Dunque non c'erano mai problemi, già. Poi mi ricordo anche Ivan di Usilo, oltre che Ivan, quello di Monteoro, anche Ivan di Usilo, anche quello tutte le sere parlavo con una ragazza dell'isola d'Elba, tutte venute immancabilmente, e anche senza la propagazione riuscivamo a modulare insieme, io, Ivan, questa ragazza dell'isola d'Elba, Frano, che però arrivava lo stesso anche senza propagazione, non capisco per quale motivo, evidentemente c'è una bella corsia dove può passare la radiofrequenza tranquillamente, perlomeno dove abitavo prima io e dalla casa di questa ragazza, una ragazza dell'isola d'Elba in Toscana. E poi c'era Corsica 1, Antonio Pigreco, non so se te lo ricordi, o Gianni di Muros. Ok, sì, ci modulavo, hai capito, modulavo con questo Sassari che aveva un'imbarcazione, si chiamava La Morte, Gianni La Morte si chiamava. E poi a Sassari, non so se ti ricordi, c'era, che adesso è morto, Grifone, poi c'era la sorella che modulava, che adesso abita al paese vicino a mio, che si chiamava Eva 2000, e modulava anche la madre che entrava con nominativo di Luisa, ti ricordi giù? Sì che me lo ricordo, tu piuttosto ricordami come si chiamava quel tipo che tutti i giorni, tutte le mattine, viaggiava da Alghero verso Sassari e parlava molto in spagnolo questo qui, perché lo sapeva parlare. Io non mi ricordo come ai tempi di Mariolino, quella gente lì, capito, di Alghero. Questo tipo tutte le mattine viaggiava per venire a Sassari al lavoro, non so cosa facesse, forse era un rappresentante, non lo so. Io so solo che tutte le mattine lui entrava in frequenza presto e parlava in spagnolo, non so se tu te lo ricordi, Gianni di Perù. Era Gambero Rosso. Non me lo ricordo, il numerativo non me lo ricordo, guarda, non me lo ricordo assolutamente. Non lo so, non lo so, veramente non lo so. Non è inutile che ti dica sì o no perché non lo so. Non me lo ricordo, so solo che parlava molto bene lo spagnolo, tranquillamente, e io ci ascoltavo così, ero molto curioso di sentire lui che parlava lo spagnolo. Avanti Capri 2. E questo è il lago Sorpeso, se me lo ricordate? All'epoca di Alghero, che faceva il rappresentante, si chiamava Fumi, Fumi di Alghero, che aveva in macchina un baracchino fuori a Centanari, infatti fuori a Centanari l'ho conosciuto a lui in macchina, che si sentiva la voce dell'alto parlante, per puro caso, perché era venuto in paese ed era un rappresentante, non so, di Libri, di roba del genere, hai capito? E si chiamava Fumi questo, ed era di Alghero, ed era anche molto colto in elettronica, riprendi giù. Sì, era una persona abbastanza colta, sì, però sinceramente non mi ricordo come si chiamasse, buona verità, so solo che parlava bene lo spagnolo tranquillamente e lui ci prendeva gusto tutte le mattine, parlava lo spagnolo mentre appunto viaggiava da Alghero verso Sassari, poi non lo so, non l'ho più sentito, poi alla fine, vabbè, comunque, i tempi sono passati, gli anni sono passati, anzi. Avanti, dopo il rumo. E mai sono venuti qualche giorno in mente, pellicola, Ragus, Petrus, Radio Domenica. Tanti. Marina, ti ricordi Marina del coso di Via Roma, come si chiama? Del Camera Comunista di Via Roma, ti ricordi Marina, che purtroppo un poveraccio è morta, così improvvisamente. Ma questa Maria no. Ma ora di domenica è la mia sorella. Ah, ho capito, sì. Poi un'altra cosa, non ho sentito più a Bacchisio, prima veniva sempre a trovarmi in motel ogni poco tempo, ma poco tempo veramente, ormai una volta al mese almeno veniva a trovarmi a salutarmi, ma adesso io in motel non ci sono più, dunque non ho voluto più, né visto né sentito. Bacchisio, sì, e tante quante ce n'erano, ragazzi, mamma mia. Vabbè, sono passati gli anni, Tonesato, poi ti ricordi il Momolaio già, che poi dico, lui è in via del Porto Torres adesso, poi Cucciolo, poi chi c'era l'altro, quello del Porto Torres, XL, Gabriela, Toccai, quante c'era, Carciofo, RSI, e c'era poco di gente, e tutti quanti, che ce l'ho scritti, da qualche parte ce l'ho scritti, tutti quei nomi, però vai tu e ricorda, te come fai, non è possibile. Vabbè dai, tempi mille. Avanti, Muros. Ok, riprendo, li approfitto che hanno già bussato le forchette giù, devo scendere a cena che stanotte. Ok, magari ci sentiamo più tardi, già si attacchi. Fatemi sentire giù anche di notte, ripopoliamo la frequenza, ok? Per il momento vi saluto, passo in QRT e ci sentiamo più tardi, se vi fa piacere. E il microfono ha già rido più lungo, sto mollando perché sennò mi mangiano tutto. Riprendi Gianni. Ah, parla Gianni, buonasera, dopo se ce la faccio sta a sacco, avanti giù. Ok, ciao Gianni, capi 2, ci sentiamo alle curse. Beh, per me è un po' difficile perché qui dove c'è la stazione c'è la televisione e mia moglie guarda a letto, chiaramente si guarda anche la televisione, perciò non è che posso modulare più di tanto, proprio per non disturbare. Al limite ascolto, metto le cuffie, ascolto tutto lì, niente di particolare. Vabbè, dai, già, ci sono fatte le 8:10 quasi, dai, andiamo anche noi a cena, tanto tu sei già arrivato a casa, sicuramente, e magari prendi anche freddo adesso lì in macchina. Perciò ci salutiamo, dai, già, e ci sentiamo alle prossime, al limite domani. Ok, ciao Gianni, grazie allora per la chiacchierata, ci sentiamo alle prossime, dai, riprendi. Ciao Giulio, ci sentiamo. Comunque me ne sono venuti in mente Radio Caterina, Sambuca, Lucchetto, me ne sono venuti in mente un po'. Ok già, facciamo una cosa, prendiamo più di carta così quando ne abbiamo voglia e scriviamo un po' di nomi e poi ce le ricordiamo a vicenda, ce le ricordiamo. Vediamo di mettermi insieme un bel numero di questi nominativi di allora, capito? Venerdì, di Trigoni, Antonio Venerdì, ce n'ero. Io non ho tanto in mente, ma come fai a ricordarti così di punto in bianco? Non è possibile, uno bisogna che ci rifletta un pochino, che ci faccia un po' di memoria, se no è meno un po' difficile ricordarsi così tutte una volta, capito già? Anche perché tanti sfuggirebbero. Vabbè, ti saluto di nuovo già, alle prossime, dai, buona cena che adesso la fai tu e la faccio io naturalmente, e buona cena anche a Gianni Capridue che sicuramente lui ha già suonato la musica con i cucchiai. Ciao ciao! Ciao, ci sentiamo, buonasera anche a te Giulio, dai, ci sentiamo domani. Buonasera a tutti, anche a tutti, ascolti.